chiacchiere distintivo. Qui finisce la lezione. Sei solo chiacchiere distintivo, solo chiacchiere distintivo. E 53 minuti primi sulle frequenze di Radio Onda Rossa 87.9 della banda romana laziale e in dub dalle province di Viterbo e di Rieti. No, che ho detto? Di Terni. Vabbè, ma prima o poi arriveremo dappertutto. Per ora Viterbo e Terni. E chissà che anche da Roma fra un pochino non si farà sta roba. Certo, la nostra generazione, la generazione del sottoscritto che ha cambiato frequenza a un certo punto e ha dovuto abituarsi. Non dire più 93.3, 93.4.50, ma 87.9. Però la radio c'è, è qua, negli studi di Via dei Volci 56 al primo piano. Quella rimane, anche se che un tempo era solo diretta, si trasmetteva solamente dagli studi. Oggi sì, c'erano, è vero, delle registrazioni, arrivavano pure con le audiocassette, alle volte i comunicati registrati sulle audiocassette e mandati, spot insomma, venivano mandati su mangiacassetta, come si diceva un tempo. Ripetiamo così ormai quasi costantemente questo inizio di trasmissione, al come eravamo, a quanta acqua è passata sotto i ponti, ovvero quanta acqua zozza è passata sotto i ponti del Tevere. Sì, poi ne potremmo raccontare tante altre e ce le centelliniamo poco poco a inizio trasmissione, visto che ormai è quasi diventare una rubrichetta, renderemo edotti ed edotte. Su come anche trasmettere in radio è cambiato e di come anche la radio si sia estesa oltre le mura di Via dei Volsci e tante trasmissioni adesso vengono prodotte in altri luoghi e poi si utilizzano quelle che sono le frequenze della radio per diffondere questi contenuti che trovate insieme a tanti altri sul sito della radio www.ondarossa.info. Ci trovate infatti tutti i podcast dei momenti salienti del broadcast di Radio Onda Rossa. Nonché la cosa più importante è quella che decideva andare il ditino del mouse. Il puntatore, la freccetta vi deve scappare e andare su Sostieni. Aprire quindi quella pagina e andare a vedere qual è la modalità che più vi conviene per continuare a sostenere questa emittente dal 1977 nell'etere romano e laziale e da un po' di tempo appunto oltre anche questi confini suddetti e da ancora un po' più di tempo. In streaming attraverso la rete. Se 61 80 40 01 è il numero del conto corrente postale da intestare a Cooperativa Culturale Laboratorio 2001, 00185 Roma, San Lollo, via dei Volsci 56. Questo è l'intestazione qualora voleste usare il conto corrente della radio. Storico pure quello, io mi sembra che a memoria mia quello è sempre stato. È un'altra cosa costante della radio da quando è nato, da quando l'uomo ha inventato la mail. Onda Rossa, @ondarossa.info per le vostre comunicazioni alla radio. 25 o'clock 25 è scritto a numero per molestare chi vi molesta in questo momento. 0649175 quasi da cospirazione, questo è veramente antico. 6 cifre per più 2 di prefisso per il numero di telefono di Radio Onda Rossa. E come ci piace dire da queste parti, illuminate di rosso, la redazione della radio più rossa che c'è. Da un po' di settimane a questa parte questo nuovo lavoro per King Gordon targato 2024. Can I love you with my eyes open? With my eyes open. Close my gaze. Close my... 11 tracce che prendono il nome di The Collective. To be blunt, it's not enough. Trophies è la quinta traccia che abbiamo ascoltato questa sera. Permaniamo al di là dell'Oceano Atlantico. Andando a percorrere quegli Stati Uniti che riescono comunque a produrre un ambito culturale che non è proprio quello MAGA, e a dire il vero non è nemmeno quello un po' melenso. Dell'establishment del complesso militare industriale, della finanza, che invece fa riferimento all'altra grande opzione politica degli Stati Uniti, che monopolizzano un po' tutto. Lo scenario di quel paese. Andiamo a parlare di Steve Von Till. Per cui, parallelamente a quella della produzione dei Neurosis, Steve Von Till produce delle uscite che potremmo definire lo-fi e comunque acustiche lentissime e profondissime. Dark inside, I'm grinding at the edges. Wilderness Deep Enough è il titolo di questo lavoro. Non abbiamo sotto mano la data, ma ci dovremmo aggirare intorno a una decina d'anni fa, insomma intorno al 2014-2015, adesso non ricordiamo per con esattezza. E ci andiamo ad ascoltare Wild Iron, Steve Von Till, Radio Onda Rossa, 25 o'clock. Fire. Confinante quindi con la Drone Music, questo lavoro di Steve Von Till in questa fattispecie. Queste tracce estremamente prolungate. Rimaniamo negli Stati Uniti, mantenendo le cadenze lente e piuttosto epiche, direi, per quanto riguarda questo altro gruppo, questa formazione che all'attivo dopo 32 anni. È una manciata di dischi, però un 9, 8, 9, 10 dischi al massimo. Eugene Robinson chiude la parentesi per quanto riguarda Oxbow nella primavera del 2024, dichiarando di voler uscire dal gruppo per non tanto per incompatibilità o particolari pressioni esterne, ma perché ritiene necessaria una pausa. Di ripensamento e forse poi magari è una rinascita di Oxbow o forse anche no, più o meno si chiude così la sua dichiarazione di allontanamento dagli Oxbow che comunque determinano in con questo allontanamento la fine degli stessi, data l'importanza e la centralità del dell'enorme vocalist. Lo rimandiamo da capo, dai, questo lavoro del X anno. Ah, dimenticavo, no, prima di andare avanti, sì, dicevamo Steve Von Till, abbiamo preso, come si dice, una toppa. In quanto abbiamo così svariato con gli anni, le memorie. È molto più recente il lavoro di Steve Von Till, infatti ce ne siamo avveduti. È del 2020. Dicevamo da capo Oxbow, quinta traccia. Tratto da The Narcotic Story. Just Find, di nuovo da capo, Oxbow, a Radio Onda Rossa, 25 o'clock. And I think it's high time that I figured out without question and without a doubt. Than a dime. I was all about all the time. Now I'm able to find out she's a fine. What it was that was. on switch, hearing loss, a ringing noise, new flesh, a new bump, a weightlessness, a headache, a sore limb, an itchy gash, a mirage, a tumor, a scare. And when one is fixed, another breaks. When some destroyed, more await. When it is time, no one comes. When you have time, it is up. And even from without, there is nothing you will find. Running at full speed without a dent, factory shine, always slightly out of time. Always, always dust. Always, always, always no such thing as luck. Only chance on the rock. Inevitable loss, running low, almost empty, almost always gone. Going, going, gone. Each day quicker, each day gone lost. The more, the less useless. That's that. No more me at the door. It's open. Come in. Wash away the sin. No more lazy sloth. This sad pig has had enough. No nail grows yet. All toes now green. Both eyes blank screens. Eyeballs all pig. Robot ear gone. Bringing silence back again. Made a tick tick a shiver. A lip gets a stiffness. A kick glimmer. Limp useless. Gone no need. When stiff useless. When needed limp. Rhythm at a hideous thing. Gets it right in the classroom. But wrong in the examination hall. One uses that. Damn it all. Useless thing. All machines designed after it. All worse, none better. I.e. all shit. None work forever. None work a minute. Worse with every use. Always chasing the first. Always chasing the free. Always chasing decency. Never adequate enough. Enough, enough. Come in, come in. Thank you. Ladies and gentlemen, are you ready for the sporting event of the year? To the thousands in attendance and to the millions watching around the world, let's see some thunder! minutes, quindi dopo Oxbow. Continuando nel sentiero segnato della interpretazione teatrale, un lavoro che stiamo ascoltando un po' tutto, in lungo e in largo, Black Midi, dalle isole britanniche stavolta. Abbiamo ascoltato la prima traccia di apertura del lavoro, ultimo, Hellfire. 2163, I was there, but could not see being a 3-for-3 superfluous freak. Prima traccia che si chiama proprio Hellfire. Falling fast, flapped by the breeze. Thunder in the red trunks, the sun zoo in the blue. Quindi mantenendoci su questo piano eclettico, rimaniamo nel oltremanica. Con una band ormai, diciamo, che ha ormai chiuso la sua esperienza. Stiamo parlando di Knife World. Cavo Storabi, Melanie Woods, Emmett Elvin, Troy Ellington, Charlie Cowood, Ben Ollacott, Josh Pearl, Oliver Selwood. Una band mista nella fattispecie di questo lavoro, fatta di quattro uomini e tre donne, quattro ragazzi e tre ragazze. The Unraveling è il lavoro pubblicato nel 2014. E ci andiamo ad ascoltare la nichilistica Destroy the World We Love. 53 minuti primi, 87.9 della modulazione di frequenza, Radio Onda Rossa e in DAB dalle province di Viterbo e di Terni. 23 novembre, sabato prossimo, disarmiamo il patriarcato. Contro la violenza maschile sulle donne e di genere, non una di meno. Dalle ore 14.30 a Piazzale Ostiense. When the curtain draws and buried all away, would this have made a difference? E mai una definizione è stata più corretta rispetto al periodo che viviamo. Disarmiamo il patriarcato perché crediamo che la conformazione del potere che si è data viene da dire nell'ultimo secolo, ma insomma difficile poi in realtà circoscrivere ad un periodo storico. Fatto sta che di fronte a due guerre mondiali sembrerebbe che il virus, quello molto più letale, molto più subdolo, ancora più subdolo di quello del mondo dei microorganismi. La guerra è qualcosa che si avvicina, che si addentra nella, sotto la pelle, sotto la superficie. E pian piano prende corpo, prende strada. Ed è proprio legato a una modalità di percepire il potere fatto di sopraffazione. Al di là di tutti i pink washing che ci si possono disegnare sopra, rimane appunto la tendenza, la vocazione, il dominio del patriarcato in questo senso. Come matrice principale poi dei conflitti e delle guerre. Andiamo avanti. Thank you. We'll be right back. 47 minuti primi e non si può parlare che di collettivo o di band estesa o famiglia estesa, come viene anche definita quella dei Gong, la band di origini, insomma, di provenienza australiana, ma assolutamente poi aperta a influenze che vengono da tutto il mondo, a musicisti che man mano si accostano, aprono nuove filiali, come dire, del progetto iniziale Gong, che appunto si moltiplica. 1976, quindi va via David Allen. David Allen va via e, diciamo, prende un po' le redini dei Gong Pierre Morlain. Il lavoro a Gazzause assolutamente declinato in chiave jazz e si discosta non dall'eclettismo, ma delle sonorità precedenti, più vicine appunto alla psichedelia e allo space rock dei Gong, lapsus freudiano. Nel campo dell'eclettismo e della sperimentazione, ancora una band che Gong, tra l'altro, scusate, così l'inciso finale, che fra le varie reunion e diciamo progetti di ripubblicazione di vecchie cose, band appunto della fine degli anni 60, che è sopravvissuta fino ai giorni d'oggi, le ultime pubblicazioni del 2019. Dicevamo, mantenendoci nel terreno dell'eclettismo, un'altra band di grande durata, questa penso dagli inizi degli anni 80, 81-82, quando negli Stati Uniti dall'insegnamento dei Velvet Underground e di quel tipo di atmosfera psichedelica e folk in qualche misura, e legata alla canzone popolare e a tutti gli stili, si prendono corpo, prendono anima una serie di band, ricordiamo Mission Bourne, Pere Ubu, Sonic Youth e anche Io la tengo. Storicamente loro incidono per la Matador Record e del 2022 esce per la Matador Record questo lavoro. Anche questo ha un titolo piuttosto emblematico di Stupid World. L'ottava traccia, per l'appunto, si chiama The Stupid World, Io la tengo. Radio Onda Rossa, 25 o'clock. minuto da mezzanotte. Tutto contratto, eh. Era due minuti dopo la mezzanotte. Wilco, ancora dagli States. Sloop, altro lavorone. Star Wars, sempre per rimanere in tema di guerre passate, presenti e future, in questo caso quelle future. Ancora al di là dell'Atlantico, il progetto è quello di Ben Chasney, in arte Six Organs of Amitans. Lavoro del 2020, questo Companion Rises. Haunted and Now, settima traccia. Six Organ of Amitans. Radio Onda Rossa, 25 o'clock. E i suoi centri d'ascolto che lavorano per noi. Finale di pizzicato per Adriano Viterbini. Ventuno minuti dopo la mezzanotte, dopo aver ascoltato Anna Calvi, classe 1980, cantautrice britannica. Nella fattispecie l'abbiamo ascoltata in quanto compositrice delle trame sonore per la fattispecie Peaky Blinders, che è una serie per la TV inglese. E di cui ha composto le musiche della quinta e sesta stagione. Abbiamo ascoltato dalle colonne sonore della quinta stagione di Peaky Blinders, serie di cui prima di avere sotto mano il disco di Anna Calvi non sospettavamo nemmeno l'esistenza. Come siamo fuori dal mondo, dell'attuale appunto stile di comunicazione. Siamo molto refrattari ai serial. Siamo refrattari pure alla televisione, a dire il vero. Preferiamo di gran lunga la radio. E mentre ci eravamo persi il disco appunto di Anna Calvi, Peaky Blinders Season 5, ultima traccia da questa raccolta, Tammy's Requiem, e poi appunto Adriano Viterbini. Bachelite. E vabbè, qui dovremmo dire che noi non siamo mai d'accordo con un signore che probabilmente avrà una grandissima conoscenza enciclopedica nel mondo musicale, ma non gli piacciono i Godspeed The You, Black Emperor, e invece gli piacciono i Mercury Rave. Che mette nella lista dei più grandi complessi rock della storia, vabbè, insomma, un po' di parte, un po' parziale. Noi non amiamo, l'abbiamo sempre detto, penso che sia il primo passaggio che facciamo dei Mercury Rev, però sapete, si prendono i dischi, si lasciano lì un po' marcire, poi si riascoltano e tutto sommato poi se ne può apprezzare qualcosa, per cui Mercury Rev. Ah! Desert Song Instrumental, lavoro del 2011, The Family Bird, The Funny Bird, è la traccia che abbiamo selezionato. We'll be right back. 36 minuti dopo la mezzanotte e concludiamo con una tripletta di quelle che è difficile ripetere. Mana, uscito nel un paio d'anni fa, il ad aprile del 2022, e quindi all'attivo ultimo lavoro per Lili Refrain. Vedremo peraltro di la prossima settimana, contiamo, non vi assicuriamo, ma contiamo di poterla contattare anche per i prossimi eventi che si terranno qui nell'area romana verso fine mese, insomma. Ancora un interessante lavoro di ricerca, questo del 2022 per quanto riguarda Lili Refrain. E poi preparato già sull'altro lettore, ultima uscita 2024, per T.I. Seagull. Lavoro che si chiama Three Bells e di cui andiamo ad ascoltare la seconda traccia, che si chiama Void. Ma poi di seguito, ultima uscita sempre all'inizio del 2024 per i Melvins, a proposito di band che invece noi mettiamo nel gota, almeno del senza doverci piccare di essere enciclopedici, ma semplicemente dei gusti, come dire, della emozione che ci dà, della capacità anche di sapersi non tanto rinnovare, perché non è una questione di rinnovamento, ma perfezionare, direi, e saper anche spaziare pur rimanendo coerenti al proprio suono da pure lì, insomma, 1986, se non andiamo errati, o addirittura 84. Per la band dello stato di Washington, Tarantula Earth si chiama questo lavoro del 2000, il lavoro del 2024. Ve lo annunciamo prima perché manderemo tutto di seguito. E manco siamo andati a cercare, perché abbiamo messo il disco e basta, la prima traccia si può mandare. Le manderemo tutte e cinque le tracce di questo lavoro molto lunghe. Pains, Well Funny, traccia di apertura, quindi ci risentiamo tra un bel po', quando ormai sarà intorno all'una, credo. E quindi T.I. Seagull, dopo Lili Refrain, T.I. Seagull e Melvins. Buon ascolto, Radio Onda Rossa 87.9 della modulazione di frequenza, in streaming da ogni dove, in dub, da Viterbo e da Terni. 25 o'clock, dagli. curtain that shades.

Quindi estenuati dalla lunghissima traccia iniziale per quanto riguarda l'ultimo lavoro dei Melvins, Pain Equals Funny. 19 minuti interi di delirio assoluto. C'è chi se lo può permettere. Poi alle alchimie tecno-orchestrali di questa fantastica big band. 11 elementi per gli hamburghesi Meute. Non sappiamo come si pronuncia in tedesco, Meut, qualcosa del genere. E quindi quando abbiamo oltrepassato qualsiasi limite di decenza all'una e 15 minuti in questo momento che scoccano, vi ricordiamo che venerdì dalle 13 alle 15 Ponte Radio sull'autodifesa femminista. Venerdì la conduzione del Ponte Radio sarà a cura di Onda Rossa in occasione della manifestazione nazionale di Non è di meno del 23 novembre a Roma e Palermo. Parleremo di autodifesa femminista presentando due libri: L'autodifesa delle donne delle storiche Simona Feci e Laura Schettini, e Avrei voluto da giovane solo vivere della poeta Nadia Alba Augustoni. E poi un'altra nuova edizione per Radio Onda Rossa. Prima trasmissione sul Walk Cancel Culture il 28 novembre. Ovviamente il 28 novembre 2024 alle ore 17. Non si può più dire niente, è il titolo di questa trasmissione dalle 17 alle 18.30 in... Onda su Radio Onda Rossa 87.9 della modulazione di frequenza, streaming su ondarossa.info in DAB nella provincia di Terni. Le trasmissioni a questo punto in diretta di Radio Onda Rossa finiscono finalmente, direte voi. Ora si riprenderà domani mattina con la lettura delle prime pagine dei giornali, la rassegna stampa cittadina e i redazionali. Fino alle 12.30, dalle 12.45 alle 14 la replica di Impatto, dalle 14 alle 15 tutta scena cinema, dalle 15.30 alle 16.30 la replica di Disorder, dalle 17 alle 18 la schiena del Sol, dalle 20 alle 21.30 Tabula Rasa, la trasmissione sui libri di Radio Onda Rossa, e poi il buon fagiolino dalle 21.45 alle 45 con i Noctibus Panis, ora migrata dal palinsesto, da quest'anno nel palinsesto del giovedì, e infine a chiudere i Cuginetti d'Apostasia. Vi ricordiamo ovviamente che è uscita la nuova Scarceranda. Se ne è potuta scorgere qualche copia già venduta al Forte Prenestino lo scorso weekend. No, nostro saluto più importante va a tutte e tutte coloro costrette a condizioni di limitata libertà personale, carcere, latitanza, clandestinità, arresti domiciliari, centri di detenzione per migranti, i vari decreti amministrativi che ci costringono tutte e tutti a una vita fatta a ostacoli insomma potremmo anche dire il capitalismo baby. Noi ce ne andiamo invece sotto la luna comunista. A risentirci a mercoledì prossimo, dai! Dreams under a communist moon.